Ave Maria a tutti ragazzi e ragazze carissimi, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Buon Consiglio per una nuova puntata del nostro settimanale appuntamento con la catechesi riservata ai giovani, questa trasmissione Spazio Giovani. Chi vi parla è sempre Donato Maria Pompei. Vi ricordo che abbiamo cominciato qualche puntata fa ad affrontare il tema dei 10 comandamenti che ci terrà, vi prometto, compagnia, credo, ancora abbastanza a lungo, perché è tema vasto e quanto mai importante è su di esso la formazione dettagliata e oculata, ecco, almeno al termine di queste nostre, speriamo, sante chiacchierate, ragazzi e ragazze carissimi, già sarebbe un ottimo risultato aver preso coscienza e cognizioni almeno delle più gravi forme con cui noi possiamo offendere il Signore, quindi per fare bene l'esame di coscienza e la confessione, e quindi per sapere soprattutto ciò e discernere ciò che è più grave e ciò che dobbiamo con tutte le forze, come ci raccomandava il Vangelo di domenica scorsa, evitare e fuggire. Ora, vi ricordo che nel nostro itinerario abbiamo cominciato la volta scorsa a scendere nel dettaglio dei peccati contro il primo comandamento, cioè, che obbliga a mettere Dio al primo posto e a non anteporgli nulla, quindi a fare che il Signore nostro Dio sia il Signore nostro Dio realmente nella nostra esistenza. E abbiamo visto che quindi questo comporta anzitutto l'obbligo di rendere a Dio il culto che gli è dovuto, perché il culto che gli è dovuto è da noi battezzati, quindi cristiani e fedeli, gli viene reso anzitutto attraverso la partecipazione e la ricezione lecita e fruttuosa dei sacramenti. E la volta scorsa abbiamo affrontato un po' il più grave in assoluto peccato contro il primo comandamento, il più grave peccato di tutti in assoluto, che è appunto quello della comunione sacrilega, quindi della comunione fatta non in stato di grazia, dilatando un pochino lo spettro, diciamo, della nostra analisi anche alla riverenza, anche esteriore con cui dovremmo accostarci al sacramento dell'Eucaristia, insomma, cercando di rendere ragione da un punto di vista storico, con un excursus, delle motivazioni e anche di una serie di, a mio modesto avviso, leggerezze e errori, diciamo così, di valutazione pastorale che ci hanno portato, diciamo, all'attuale situazione abbastanza critica nei confronti dell'Eucaristia, situazione critica da cui è in dubbio, per quanto mi riguarda, che dipende con nesso di causalità, dicevano i giuristi quando studiavo, immediata e diretta, la crisi che sta attraversando la Chiesa, cioè la crisi della Chiesa è crisi dell'Eucaristia, perché tolta, diciamo così, è inquinata la fonte da cui traiamo, come dicevano i padri, la nostra invincibilità, chiamavano l'Eucaristia farmaco dell'immortalità, chiaramente è facilissimo diventare preda, ecco, da un punto di vista, sotto tutti i punti di vista, insomma, mentale, volitivo, intellettuale, è attuale, diciamo, è fattuale, meglio ancora, degli avversari della Chiesa, ecco, siano essi di carne ed ossa o siano essi, come dice San Paolo, puri spiriti che sono ancora più agguerriti. Ora, il secondo sacramento che si può ripetere, ragazzi e ragazze carissimi, voi ben sapete che è il sacramento della penitenza o della confessione. E ovviamente, essendo questo l'altro sacramento che si può ripetere, anche qui, come dire, si presta il fianco e si offre il fianco alla possibilità di commettere un gravissimo peccato, quindi di nuovo un gravissimo sacrilegio, che è quella della confessione sacrilega. Io mi dilungo e diciamo, mi occuperò anche oggi della confessione sacrilega abbastanza a lungo, come la volta scorsa della comunione, semplicemente perché questi due sono i sacramenti che si possono ripetere, quindi che è facile. In cui è facile ovviamente incorrere nel peccato. Però, ragazzi, prima di scendere nel merito oggi, teniamo presente che anche si possono fare sacrilegio anche con gli altri sacramenti. E generalmente il sacrilegio si fa quando, ci si accosta a un sacramento non senza, diciamo, lo stato di grazia. Quindi, per farvi un esempio, le cresime, io mi sgolo con i miei ragazzi. Molte cresime che vengono celebrate oggi sono cresime sacrileghe. Sapete perché? Perché lo stato di grazia di molti ragazzi che si accostano a questo sacramento è uno stato di grazia, come dire, apparente per due motivi. Tenete presente che dalle mie parti, io sto parlando, diciamo così, da un punto di vista di esperienza locale, il nostro vescovo, a mio avviso opportunamente, ha ampliato, diciamo così, l'arco catechistico ordinario, che sarebbe di 4 anni, portandolo a 6. Quindi qui la cresima la fanno i ragazzi che sono alla fine della terza media o, per chi poi la pospone come il sottoscritto dopo l'estate, all'inizio della scuola superiore, quindi sono grandicelli. Allora, quando uno si accosta a questo sacramento, come purtroppo molti ragazzi fanno, con la disposizione questa, che terminato il sacramento della cresima, arrivederci e grazie. Cioè, quindi finita la cerimonia, celebro questo sacramento usando, diciamo, un'espressione che usa qualcuno un po' amara come il sacramento dell'addio, cioè nel senso dovrà finire pure sta messa. Finita sta messa, arrivederci e ci rivediamo forse quando mi sposo, ma siccome oggi molti non si sposano, non ci rivediamo nemmeno quando mi sposo, ci rivediamo forse il giorno del funerale, per qualcuno purtroppo così è. Voi capite subito che chi si è confessato prima di ricevere la cresima con questa disposizione ha fatto una confessione che non serve a niente. Oltre al fatto che a volte purtroppo i ragazzi a quell'età, diciamo, si confessano purtroppo, spero non voi, non troppo bene, perché alcune cose non le dicono, le tacciono perché hanno paura del confessore, oppure se le dicono senza nessun pentimento, come vedremo oggi. Non parliamo poi del sacramento del matrimonio. Non parliamo del sacramento del matrimonio, che per quanto mi riguarda, i matrimoni che si celebrano oggi sono un insulto continuo al Padre Eterno. Ecco, per le condizioni con cui vengono celebrati, perché capite subito che, guardate i matrimoni che si vengono a celebrare in giro oggi, numero uno, quasi tutti i matrimoni sono profanati prima che siano celebrati, e vi dico che molte coppie prima del matrimonio che si confessano, neanche lo dicono al prete: ho commesso atti impuri, anche se l'hanno fatto fino al giorno prima, perché loro, come dire, ritengono quella cosa perfettamente normale. Quindi pensate se magari un sacerdote in perfetta buona fede, si pensa che questi sono stati bravi, sono stati casti, magari non li aiuta a confessarsi bene, non gli chiede nulla, pensate a che sacramento del matrimonio che vanno a celebrare. Oppure pensate alla piaga sociale, io la chiamo con un'espressione macabra, dei matrimoni porno che si celebrano adesso. Cioè, sembra, a quello che mi raccontano, perché insomma io cerco di metterci delle serie contromisure, che non si possa più andare a un matrimonio senza non vedere delle sfilate di seminudismo a partire dalle spose e dai loro succinti abiti. Succinti uso per dire un eufemismo, più tutto il corollario degli invitati. Voi ci avete mai pensato, un matrimonio del genere come lo guarda nostro Signore? È un'offesa a Dio. Quindi adesso non vorrei dilungarmi troppo, però io ogni tanto, come sapete, lancio delle provocazioni volute, perché si possa riflettere. E qui attenti, ragazzi, perché qui queste cose, sì, ricordate sempre che qualcuno ha detto che il male dilaga anche per colpa di chi non dice una parola. E questo sarebbe il tempo, quanto mai, potremmo chiamarlo il tempo dei leoni, il tempo attuale, cioè, quindi il tempo delle persone che abbiano il coraggio di parlare, di denunciare. Cioè, una sposa che si presenta nuda, dentro una chiesa, chi celebra quel matrimonio ne risponderà davanti al Padre Eterno, se non ha fatto quantomeno di tutto per impedirlo. parlando chiaramente, e anche il giorno stesso che uno si dovesse trovare in una situazione di quel genere, bisogna farci qualcosa, perché non si può fare finta di nulla, come se niente fosse. Il fatto che siano ammessi dentro le chiese persone che dire che sono vestiti in abiti succinto è veramente dire un eufemismo, cioè sono dei veri e propri scandali gravi. Chi è che li ha fatti entrare in chiesa? Cioè, io vi dico, io sono parroco, no? Quando uno viene nominato parroco, non so se avete mai visto il rito d'ingresso di un parroco, anche se io non l'ho fatto perché io sono arrivato qua come vice parroco, poi sono diventato parroco, quindi c'è stata la dispensa, ma quando c'è il rito di presa di possesso della parrocchia, vi ripeto, non so se l'avete vista, c'è uno dei riti che il vescovo prende le chiavi della chiesa e del tabernacolo e li consegna al parroco. Sono dei gesti significativi per dire cosa? Sta attento che quello che avviene dentro la chiesa, di cui tu c'hai le chiavi, e quello che fanno a Gesù Caristia, le cui chiavi il tabernacolo ce l'hai tu, ne rispondi tu davanti al Padre Eterno. Ma la stessa cosa però, ragazzi, vale per chi è invitato al matrimonio. Perché anche chi è invitato uno non può fare il discorso io che non mi impiccio, tanto non sono io e chi se ne importa. Cioè, uno magari con tanta carità, con tanta dolcezza, però sarebbe bene che le facesse presente alcune cose. Ecco, così come chi, cioè, avete visto che a volte ci sono alcuni che vanno a suonare, insomma, i cori parrocchiali, eccetera, eccetera. Bisogna, certo, farla presente almeno. Cioè, è ovvio che un povero fedele non è che ha il potere di impedire alcune cose, no? Dovrebbe essere chiaramente il ministro lì a imporsi e a obbligare l'osservanza dei criteri minimi di decenza, se no ti mando via, capite? Non è che non ti celebro il matrimonio, come poi qualcuno va dicendo in giro. Io il matrimonio te lo celebro come e quando vuoi, purché tu abbia un comportamento almeno esteriore, perché poi per quanto mi riguarda moltissime coppie che si accostano a celebrare il matrimonio, sarebbe meglio che si preparassero un pochino meglio, ecco, perché oggi è veramente difficile arrivare al matrimonio, diciamo così, stando in una condizione interiore che possa, come dire, lasciar sperare e presumere una grande benedizione di Dio su quel matrimonio. Sono pochi quelli che arrivano così. Però è ovvio che su quello uno non è che può andare a fare il sindacato, però sulle condizioni esteriori sì. Caspita. Allora, se gran parte della responsabilità spetta a, se ci fosse anche qualche fedele laico un po' più coraggioso che almeno dicesse qualcosa, agli invitati e ai protagonisti, certamente non farebbe male. Quindi, capite, qui stiamo in una situazione grave, diffusa, in cui tutti siamo chiamati a intervenire. Ora, per quanto riguarda invece il sacramento della penitenza, entriamo nel merito, anzitutto facendo un piccolo richiamo all'uso del sacramento della confessione, così come della Santa Comunione. Voi sapete che la nostra Madre Chiesa ha ricevuto questi due tesori, ripeto, la confessione e l'Eucaristia sono proprio il cuore della vita della Chiesa, il segreto della nostra forza. Cioè, tutte le persone, quando una persona dice: Don Leonardo, voglio diventare tuo figlio spirituale, tua figlia spirituale, cosa devo fare per diventare santo? La prima cosa è impara a usare bene, molto e bene i sacramenti che si possono ripetere, perché nostro Signore non fa le cose a casaccio o a vanvera, come facciamo noi. Se ha istituito questi due sacramenti, li ha istituiti perché li usiamo molto e bene, perché niente come i sacramenti ci santifica, perché i sacramenti ci mettono in contatto diretto con la fonte della nostra salvezza, che è il mistero pasquale, che è la passione e la morte, e ovviamente anche la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo, che viene realmente applicata a noi negli effetti salutari e salvifici, quando riceviamo bene, quindi non in modo sacrilego e in modo possibilmente anche fruttuoso, quindi con le disposizioni migliori, i sacramenti, soprattutto quelli che si possono ripetere. Ora, ahimè, purtroppo, come penso che molti di voi sappiano, l'uomo non è tutto questo gran santo e non molti hanno tanta voglia di diventare santi. Quindi che succede? Succede che c'è chi trascura molto, a parte la messa domenicale, ma proprio l'accostarsi ai sacramenti della comunione e della confessione. Questo problema diciamo che sta un pochettino svanendo per quanto riguarda la comunione, perché c'è il problema contrario. Oggi ci si accosta alla comunione troppo e male. Però per quanto riguarda la confessione, invece, come tutti penso che sappiate, è tuttora considerato sacramento in crisi. Cioè, mentre alla comunione si accostano troppo e male, alla confessione si accostano molto poco e molto male, tra l'altro, quei pochi che si accostano. Quindi, ragazzi e ragazze carissimi, la Chiesa è stata, diciamo così, costretta a fare un precetto canonico, che è uno dei cinque precetti generali della Chiesa. Spero che ve lo ricordiate dal Catechismo, che dice così: confesserai al tuo Signore attraverso il suo ministro tutti i tuoi peccati almeno una volta l'anno, pensate un po', e ti comunicherai almeno a Pasqua. Quindi c'è un vero e proprio obbligo canonico che faceva piangere il santo curato d'Ars, che quando commentava questo precetto diceva: ma ti pare che la Chiesa deve andare a fare un precetto, quindi obbligare a fare la cosa più bella che esista, cioè fare la comunione, e a farla con questa, diciamo, misura così minima, una volta l'anno? E lui si metteva a piangere e diceva: pensa un po' quanto il cuore dell'uomo è sciocco e quanto siamo messi male e quanto Satanasso schiavizza i cuori dei figli di Dio, insomma, per dover fare un precetto di questo genere, cioè andare a dire che ti devi confessare almeno una volta l'anno. Però, ecco, sapete che la Chiesa è madre ed è anche molto realistica. Quindi, essendo molto realistica, diciamo, ha dovuto fare questo precetto perché sa come vanno le cose. Quindi per questo, ragazzi, quando entrate in confessionale, almeno dovrebbe succedere così, il confessore la prima cosa che vi chiede è: da quanto tempo non ti confessi? Perché capite, se uno non si confessa da 20 anni, già il fatto che per 20 anni non ha adempiuto a questo obbligo canonico, che è obbligo in coscienza, ha già commesso 20 peccati gravi. Per questo che io mi ricordo, quando ero piccolo, mi stavo sempre, che la prima volta che mi confessavo, c'era il prete che mi diceva: ma da quanto tempo non ti confessi? Da quando? Dico: ma questo che gli importa da quanto tempo non mi confesso, insomma. Mi sembrava una domanda sciocca, no? Dico: ma che gli importa questo? Ecco, dopo ho capito, dopo, no? Un po' è per rendersi conto subito di chi sia davanti, un po' è per mettere subito, diciamo così, nel calderone un'eventuale, diciamo, inosservanza grave di questo obbligo canonico. Quindi, attenzione, l'uso minimo della confessione è questo. Quindi, voi sapete che c'è un altro, come dire, un'altra indicazione circa l'uso minimo della confessione, no? In base al Concilio di Trento, cioè che uno si deve accostare alla confessione quando vuole fare la comunione ed è cosciente di avere commesso peccati mortali. State attenti, ragazzi, perché qui a me mi arrivano ogni tanto, continuano ad arrivarmi delle strane cose, nel senso di sacerdoti che direbbero: ah, tu non ti preoccupare, intanto fai la comunione e poi ti confessi. Io vi dico, per favore, ecco, di non ascoltare queste sciocchezze. Nel senso che la confessione va fatta prima se si è fatto un peccato mortale, non dopo. È un controsenso, non ha nessun senso. Cioè, in teoria, cioè, ma sarebbe meglio alcune cose neanche dirle. In teoria sarebbe possibile fare una cosa di questo genere, però. E vi dico subito come: cioè, se uno avesse un pentimento perfetto dei peccati commessi, uno, uniti al proposito di confessarli quanto prima, due, e fosse stato realmente impossibilitato a confessarsi prima, tre, potrebbe fare questa cosa. Però voi capite, come fai tu a sapere che sei proprio pentito del peccato che hai fatto in maniera perfetta? Nessuno è in grado di giudicarlo. E come puoi dire che è stato proprio impossibile confessarsi prima e che magari non è dipeso da tua negligenza, nel senso che potevi arrivare 10 minuti prima della messa e cercare il confessore, oppure potevi andarci il giorno prima, capite? Quindi se una di queste condizioni non c'è, si va a combinare un guaio, perché poi si fa la comunione sacrilega. Quindi bisogna lasciare perdere e anteporre sempre la confessione. Comunque, qual è l'oggetto della confessione? State attenti, adesso entriamo poi nel tema specifico. Quando è che si parla di confessione sacrilega? Allora, per fare bene la confessione ci sono anzitutto dei requisiti da osservare, generali. Poi ci sono i cosiddetti atti del penitente, cioè la confessione è sacrilega quando il penitente non compie bene gli atti che gli spettano. Mentre, come dire, un confessore può commettere tanti peccati mortali ascoltando le confessioni, se nell'atto dell'amministrare questo sacramento non fa bene e con scrupolo le cose che spettano a lui. Ovviamente voi, penso che siano pochi, non so se ce n'è qualcuno, i preti che mi stanno ascoltando, forse nessuno. Ovviamente ci occupiamo degli atti del penitente. Gli atti del penitente sono tre. Stare attenti che da questi tre atti non soltanto dipende il fatto che la confessione possa essere, come dire, possa essere sacrilega o no, ma dipende anche poi l'efficacia dell'assoluzione. Cioè, nel senso, adesso come vedremo, che se una persona non compie bene uno di questi atti, l'assoluzione cade su un terreno non disposta a riceverlo, per cui non si è assolti. Io cercherò di farvi capire bene questa cosa, perché oggi molti fanno un po' i furbetti. Una volta era in trasmissione su Radio Buon Consiglio, a un'altra trasmissione che era tu per tu col settimanale di Padre Pio, non mi ricordo perché si stava parlando di questa cosa, e quando poi Don Leonardo scava e denuncia, chiaramente gli ascoltatori non sono mica sciocchi, sono persone intelligenti, capiscono bene. Mi chiamò una persona X e mi dice questa cosa, dice: ma sa padre, poi ci arriveremo al sesto comandamento, io con mia moglie non voglio avere figli, e quindi, diciamo, quando abbiamo i rapporti coniugali io mi sono chiuso alla vita. Adesso non ha importanza come, no? È chiuso alla vita con un peccato che dipende dal maschio. Dice: ah, poi però lo sai che faccio? Mi sono andato a confessare da tutti i preti della mia città, cioè mi confesso perché voglio farmi la comunione, quindi ogni domenica vado a confessarmi da un confessore diverso. Dice: secondo lei, cioè, però mi sa che questa cosa che faccio non è che va tanto bene. Dico: ecco, io chiaramente gli ho risposto: la tua coscienza ti sta già avvertendo perché non va tanto bene, perché questo non è minimamente pentito dei peccati che fa. Allora tu vai da un prete che non ti ha mai visto e conosciuto. A meno che tu non incontri Padre Pio, un prete quando ascolta una confessione, certamente poi rivolge un'esortazione, presume che la persona che si sta confessando sia pentita, cioè questo bisogna presumerlo, se no che ti confessi a fare. Ma se tu ti vai a confessare dicendo: bene, ogni tanto settimana mi confesso con Don Pasquale, poi tanto dopo martedì e mercoledì risto con mia moglie, lo rifaccio, quindi la settimana prossima andremo da Don Nicolino, e poi la settimana dopo ancora andremo da Don Francesco. Capite che questa confessione, tu non sei pentito, quindi Dio perdona qualunque peccato, qualunque, alla condizione che sia ben confessato, come vedremo subito, che tu sia pentito. Quel prete, chiaramente, magari forse non ha modo di indagare sul tuo pentimento, lo presume perché tu ti stai confessando, non ha il dono come Padre Pio, che legge i cuori, quindi per questo che Padre Pio cacciava un sacco di gente, perché constatava che i cuori di quelli che si andavano a confessare non erano pentiti dei peccati commessi, e per questo li mandava via, perché tanto se li avessi assolti, quelli non erano assolti. Capite? E quindi tu esci dalla confessione assolto e sei illuso di essere assolto. Quindi hai fatto una confessione sacrilega, che tu lo sai di averla fatto perché ti sei confessato senza nessun pentimento. E non pensare che siccome il prete ti ha detto io ti assolvo, vai a fare la comunione in grazia di Dio. Fai due peccati. Io vi dico, ragazzi e ragazze carissimi, che ho la certezza assoluta che questa cosa accade. D'accordo? Da prete io sono sicurissimo che alcune persone fanno questa cosa. Chiaramente non posso scendere nei particolari perché sono un prete e anche se chi mi ascolta non ha idea delle condizioni particolari che io vivo, è meglio essere molto riservati su queste materie, no? Però attenti che chi fa questo non è assolutamente esente da due peccati mortali. Adesso lo vedremo subito perché vi invito a unirvi un attimo a me, come già la volta scorsa, di fare una piccola pausa a metà trasmissione, che sia un pochino salutare, recitando, unendovi alla recita di una piccola Ave Maria che io ho preso un pochino l'abitudine di recitare ogni giorno alle ore 17, quindi vi chiedo di unirmi a questo mio piccolo gesto di amore alla Madonna che spezza anche un po' la serietà, diciamo così, e l'impegnatività della catechesi. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Allora, tornando alla confessione, con l'esempio che ho fatto, abbiamo già visto uno dei requisiti della confessione, cioè degli atti del penitente, la mancanza del quale rende già la confessione sacrilega, cioè il pentimento. Cioè, Dio perdona, questo lo sappiamo dalla Sacra Scrittura, qualunque colpa dell'uomo, qualunque. Non esiste peccato tanto grave da non poter essere rimesso dall'infinita misericordia di Dio. Vi ricordate quando Scaino disse: troppo grande la mia colpa per ottenere perdono? È una bestemmia quella. Non esiste colpa tanto grande. E Caino ha ucciso il fratello. Voi sapete qual è stato il peccato più grande di Giuda Iscariota? Non di aver tradito Gesù, ma di aver disperato della sua misericordia. Perché se Giuda fosse andato sotto la croce, dove per colpa sua Gesù si trovava, diciamo così, guardando alle condizioni, alle circostanze meramente umane, quindi prescindendo dai voleri dell'Altissimo, se fosse andato sotto la croce, Gesù l'avrebbe perdonato e sarebbe stata la più grande gioia che avrebbe avuto il Redentore e la Corredentrice, ma non ci è andato. Quindi la misericordia di Dio è più grande di qualunque nostro peccato. Ma non rimette nessun peccato se non a chi è pentito. E per essere pentiti ci vogliono alcune condizioni. Uno, bisogna provare dolore per i peccati commessi, detestandoli con tutto il cuore. Quindi attenzione, ci sono tre movimenti che costituiscono il pentimento. Il dolore per quello che ho fatto, la detestazione di quello che ho fatto, mi fa schifo quello che ho fatto, odio quello che ho fatto e conseguentemente in futuro farò il possibile per non farlo più. Se non c'è una di queste tre cose, ragazzi carissimi, la confessione è nulla. Io insegno fin da quando sono giovani alle persone che si accostano al sacramento della confessione, visto che qualcuno come dire, ha l'abitudine di confessarsi utilizzando il tempo presente. Dice: io faccio questo, cioè dico le bugie, adesso parlo di peccati piccolini, no? Dico le parolacce, disubbidisco a mamma. Allora io dico: fratello mio, figlio mio, ascolta bene, i peccati non si possono confessare al tempo presente, perché se tu dici dico le bugie, vuol dire che tu le hai dette, fino adesso le stai dicendo, e usare il tempo presente, tu lasci intendere che non c'è nessuna intenzione almeno di provarci a non dirle più, e che non è che sei tanto dispiaciuto per averle dette. Quindi anche se questo fosse, come dire, uno sbaglio semplicemente formale, diciamo così, quindi di linguaggio, cioè che tu non ci stai pensando, correggilo. Perché anche il linguaggio è importante. Allora, voi capite bene, no? State attenti, ragazzi. Anche su questo andarvi a trovare un confessore. Ecco, perché sono alcuni peccati che sono molto gravi. E per essere assolti bisogna essere pentiti. E su questo il sacerdote vi deve un pochettino aiutare. Pensate, per esempio, adesso non voglio anticipare il sesto comandamento, però sto parlando ai giovani, è ovvio, no? Ai peccati che i giovani commettono contro la purezza. Uno non può andarsi a confessare dicendo ho rapporti con la mia fidanzata. Ragazzi, state attenti perché queste sono cose serie. Se tu hai fatto la scelta di avere rapporti con la tua fidanzata e non hai nessuna intenzione di smettere, allora o non ti confessi e non ti fai la comunione, oppure cominci almeno a entrare nell'ottica che dovrai combattere e fuggire le occasioni di peccato. È inutile che ti vai a cercare il prete che dice va bene ma non fa niente, e vi assicuro ci sono ragazzi che lo fanno. Quando una coppia si vuole bene, queste cose sono benedette da Dio. E purtroppo sembra, io spero sempre che se ne inventino questi mascalzoncelli di alcuni ragazzi, sembra che qualche prete osi dire questa sciocchezza. Che è una sciocchezza grande quanto una casa, insomma, no? Quindi, quando non c'è questo requisito interiore, che è quello a cui Dio guarda, ed è il più importante di tutti, il prete può stare a dire io ti assolvo quanto gli vuole, ma tu da quella confessione non esci assolto, anzi, esci più inguaiato di come sei entrato. Sant'Alfonso Maria de Liguori, che è il patrono dei confessori, dice che se un prete si azzarda a dare un'assoluzione quando non, cioè quando risulta evidente che il penitente non è pentito, in alcuni casi è evidente, d'accordo? Se viene una mamma di famiglia a dirti, padre, io prendo la pillola, cioè, fai subito a capire se è pentito, si dice, figlia mia. La pillola non si può prendere perché è contraria alla castità coniugale. Sei disposta a prendere la scatola delle pillole e buttarla al secchio e interrompere questa brutta cosa? Se quella ti risponde no, padre, non ci penso nemmeno perché io ho già due figli e non voglio più manco una, e quindi è inutile che lei parla, questa è una scelta che ho fatto. Cioè, tu non la puoi, cioè, Dio non l'assolve, capite? Allora, se tu ti azzardi ad assolverla, tu prete. Tu commetti peccato mortale, dice Sant'Alfonso, e lo commetti doppio. Perché uno fai una cosa che non è in tuo potere fare, cioè un prete, ragazzi, è un ministro della Divina Misericordia. Lui deve assolvere tutti le persone che sono pentite. Se una persona è pentita non ti puoi mai prendere come dire, che sei matto. L'arroganza di mandarlo via, ma tu non puoi assolvere nessuna persona che sia evidente che non è pentita, per nessun motivo, altrimenti passerai guai davanti al Padre Eterno. Allora state attenti qui perché alcuni fanno i furbetti, cioè si vanno a trovare il confessore con la manica larga e che assolve sempre tutto e comunque qualunque cosa gli dica. Un ragazzo, una ragazza che fa così, un fedele che fa così, non è, cioè. Ragazzi, vogliamo prendere in giro il Padre Eterno? Tu pensi che il Padre Eterno non vede il tuo cuore? Forse non lo vede il prete, perché non ha i doni straordinari che aveva Padre Pio, ma Dio lo vede quel cuore. Tu presumi di prenderti gioco di Dio? San Paolo dice proprio nelle sue lettere, non illudetevi, non ci si può prendere gioco di Dio. Io ho detto tante volte, i miei fedeli lo sanno, che io ritengo che se c'è una cosa che irrita, perdonatemi l'espressione che è presa dal nostro modo di parlare, il Padre Eterno e che lo fa irrigidire, è quando si trova dinanzi qualcuno che presume di fare il furbetto con lui. Il Signore detesta chi fa il furbetto, questo io mi ritengo di poterlo dire in coscienza. Ok, quindi quando ci andiamo a confessare. Almeno, dice il Consiglio di Trento, se non c'è un pentimento grosso, ci deve essere almeno l'attrizione, si chiama così, cioè, numero uno, mi dispiace di aver peccato, e non perché ho offeso Dio, ma perché so che facendo questo ho messo a repentaglio la salvezza della mia anima, E se non mi confessassi sarei, come dire, candidato all'inferno. E quindi, almeno per evitare di andare a finire all'inferno col peccato mortale, cercherò in futuro di starci attento. Questo è il livello minimo, dice il Concilio di Trento. Al di sotto di questo livello è inutile che te confessi. D'accordo? Cioè non c'è lì da parlare di confessione. C'è da parlare di conversione, perché fino a quando tu non cambi modo di pensare e non fai delle scelte conseguenziali, non puoi essere assolto da nessuno. Capito? Quindi vi prego su questo di essere attenti. Vi dico che questo, vi parlo per esperienza, è una piaga assoluta. D'accordo? Assoluta e diffusissima. Seconda circostanza che rende sacrilega la confessione è questo: quando uno confessa i peccati a metà, quindi dice questo lo dico e quest'altro non lo dico, o li confessa male, cioè li confessa in modo confuso, generico o poco chiaro. Ora, il Concilio di Trento dice, ragazzi, attenti, che oggetto obbligatorio della confessione. Quindi non è che tu questo lo puoi scegliere. Allora, sapete che la confessione ha, come dire, un oggetto obbligatorio, che sono i peccati di cui parlo adesso, e poi un oggetto facoltativo. Cioè, per esempio, i peccati veniali e le imperfezioni, adesso non è il caso adesso di approfondire in questa sede questi temi, sono oggetto facoltativo della confessione. Cioè, se io commetto un'imperfezione, una mancanza, una virtù minima, non sono tenuto a dirlo in confessione. Ma se io commetto un peccato mortale, devo dirlo in confessione, non soltanto devo dirlo, ma devo dirlo bene, cioè specificando il genere a cui appartiene, il numero dei peccati commessi e le circostanze. Adesso vi spiego queste cose. Allora, per non parlare sempre del sesto comandamento, che si parla di quello perché è sempre materia grave, parliamo del terzo. Allora, non basta andare a dire al prete non sono andato a messa, perché non sei andato a messa devi dire uno perché in base alle circostanze non essere andato a messa può essere un peccato che magari addirittura diventa non mortale se ci sono state delle motivazioni molto gravi che ti hanno portato a mancare alla messa, può addirittura diventare un non peccato se tu sei stato impossibilitato a partecipare alla messa. Adesso faccio subito un esempio. Oppure può essere aggravato se tu dici non sono andato a messa perché non mandavo e sono andato al cinema, per la futilità dei motivi. Allora, facciamo un esempio in cui è diminuito. Non sono andato a messa perché, non lo so, si è sentito male mia madre e io sono rimasto a casa ad assisterla. Certo. Se avessi voluto potevo chiamare mio fratello e dirgli puoi stare tu un'ora con mamma che io me ne vado a messa, però il motivo per cui non sono andato non è che perché sono andato al cinema o a divertirmi, ma era perché mia madre stava male e sono stato a fargli compagnia. Allora, se c'era qualcuno che ti poteva sostituire, tu comunque hai fatto peccato, ma per questo motivo chiaramente la tua responsabilità è di molto diminuita. L'esempio opposto che vi ho fatto, non sono andato a messa perché dopo voler andare al cinema o volevo uscire con gli amici, aggrava il peccato che hai fatto per la futilità dei motivi per cui hai trasgredito il terzo comandamento. Invece, supponiamo che uno dice: avevo programmato andare alla messa vespertina della domenica sera. Esco di casa e ho fatto un incidente con la macchina. Fatto l'incidente, ora che finisci, arriva la polizia, eccetera, eccetera. Le messe tutte quante finite, non ci sono altre messe, hai perso la messa domenicale. Voi capite che in questo caso non c'è proprio nessun peccato, non dovete manco confessare, perché manca completamente il deliberato consenso, è proprio assente, capite? Perché tu sei uscito di casa con l'intenzione di andare a messa e con la macchina e tutto te potevi immaginare a meno che avessi fatto un incidente. Non so se sono riuscito a farmi capire, no? Ora, è oggetto obbligatorio della confessione, quindi il peccato mortale. Sempre tornando alla messa, se uno ha fatto un blackout, come fanno alcuni ragazzi che per esempio non si sa chi è che gli dà queste autorizzazioni. L'estate prendono e da giugno a settembre non vanno più a messa. Quando si vengono a confessare a ottobre, non basta che dicono, padre, non sono andato a messa. Devi dire, padre, ho mandato in vacanza il Padre Eterno per tutta l'estate, da giugno a settembre, perché vuol dire che di messe ne hai perse 12, 13, 14. Quindi non hai fatto un peccato mortale, ma hai fatto 14 peccati mortali. E non è la stessa cosa fare un peccato mortale o fare 14 peccati mortali. Quindi è ovvio che noi non è che abbiamo il pallottoliere, che quindi quando facciamo un peccato mortale ci mettiamo a dire è uno, è due, è tre, poi ce lo segniamo, così alla prossima confessione te li dico tutti, capite? Però l'ordine di grandezza bisogna dirlo. Cioè, un conto è una mancanza, una messa, un conto è se una persona si confessa dopo 20 anni e magari per 20 anni non ha messo piede in chiesa, deve dire padre, per 20 anni non ho messo piede in chiesa. Capite? Se una persona, non lo so, stava fidanzato e prima di fare la scelta della castità ha commesso atti impuri, deve dire che cosa ha fatto. Un conto è avere rapporti prematrimoniali in senso stretto come marito e moglie, un conto è fare il petting, un conto è un incidente, un conto è che uno abbia fatto questo abitualmente per un certo numero di mesi o di anni, capite? E questo bisogna dirlo, ragazzi, eh. Quindi non basta, quindi, perché, ripeto, c'è un decreto del Concilio Tridentino, con dei canoni, quindi confessare i peccati mortali per genere, numero e circostanza, e tra l'altro tutti i peccati mortali di cui si è coscienti che siano stati commessi da quando si ha l'uso della ragione fino a quando mi sto confessando, è dogma di fede, non è opinione di qualche prete. Tanto meno di Don Leonardo. Attenti ragazzi, eh. Quindi nessuno si può dispensare da questa cosa, nessuno. Nessuno e per nessun motivo. Attenti, ho detto tutti e singoli i peccati mortali di cui il penitente abbia coscienza. Per esempio, ci sono dei peccati che ho commesso quando ero piccolo e che so di averli commessi e che non ho mai detto in confessione, li devo dire. Sapete quante volte a me è successo? In continuazione se succede, grazie a Dio, di persone che vengono a dire, quasi sempre mi dicono, ma qualcuno ha sentito qualche intervento del sottoscritto, dice, ah, ma io questo non lo sapevo, ah, ma io questo non lo sapevo, vengono a confessarsi e magari tirano fuori peccati molto antichi. Dice, questo è successo quando ero, magari io non ero consapevole che questa fosse una cosa grave, questo non l'ho mai detto in confessione, questo non l'ho mai detto in confessione, questo non l'ho mai detto in confessione, e bisogna dirlo in confessione. Perché se tu c'è un peccato grave fatto anche tanto tempo fa che non hai mai detto, quel peccato non è cancellato dalla tua anima, come accade quando siamo assolti. Quel peccato rimane perfettamente nella tua anima e lo devi confessare. Quindi le confessioni vanno fatte bene, ragazzi, quindi state attenti che è fondamentale. Per non rischiare anche tra l'altro le comunioni sacrilege, scegliere un buon confessore. Un buon confessore, lo sapete in che senso è buono? Cioè l'unica forma di bontà, diciamo, piacevole che può praticare un confessore è questa. Attenti. È darti una penitenza proporzionata ai peccati che hai fatto, ma non tanto quanto dovresti farla. Ma non perché nessuno la fa, ma perché il confessore la fa lui. Stare attenti, abbiamo parlato adesso del pentimento, uno, della confessione che deve essere fatta bene, il terzo atto del penitente è la penitenza per i peccati che ha fatto. L'ho detto recentemente in una mia omelia, credo, durante il 2 di novembre, quando spiegavo un attimo la dottrina delle indulgenze. Allora, perché si deve fare la penitenza dopo che si è perdonati? Dice, ma come? Non sono stato perdonato, quindi che devo pagare il conto? Qualcuno dice, scusa, mi ha dato la soluzione, mi ha detto sono perdonato, cioè se io sono perdonato e poi devo pagare il conto, ma che perdono è? Giusto? Qualcuno lo pensa questo qui, no? Allora, c'è una risposta, come sempre, a tutte quante le domande intelligenti. Allora, quante volte è morto in croce nostro Signore, ragazzi e ragazze carissime? Domanda? Io direi una, no? Giusto? Ecco, quindi. Con quella unica morte in croce, Gesù ha pagato per il peccato originale e e per tutti i peccati che l'uomo commette di cui si pente. Quindi, come dire, ogni uomo ha un bonus assoluto, perché Gesù è morto in croce una volta sola. Quindi, se voi vedete per esempio battezzare un adulto, avete visto per esempio il battesimo di Magdi Cristiano Allam, io l'ho conosciuto recentemente alla Marcia della Vita, andategli a chiedere a Magdi Cristiano Allam, che è stato battezzato a 40 anni, quanti ce n'aveva, dice, senti un po', che penitenza ti ha dato il Papa per il tuo battesimo? Non ti risponderà nessuna. Perché il battesimo che viene amministrato per la remissione dei peccati, quindi, come dire, è la prima, come dire, capite il senso in cui lo sto dicendo, no? Celebrazione del sacramento della penitenza. Guardate, gli effetti del battesimo e della penitenza sono identici, tali e quali, da un punto di vista di cancellazione delle colpe, identiche. Però nel battesimo i meriti di Cristo ti vengono, come dire, applicati integralmente. Quindi sia per quanto riguarda la remissione delle colpe che per quanto riguarda l'espiazione dinanzi alla divina giustizia per i peccati commessi. I peccati che hai commesso dopo il battesimo, e questa è un'esigenza della divina giustizia, per quei peccati i meriti di Cristo ti vengono comunque trasmessi, perché non c'è nessun peccato che può essere perdonato se Gesù non presenta le sue piaghe e non offre il suo sangue che ha versato una volta per noi al Padre e con esso lava le nostre anime. Però non vengono applicati integralmente, per cui viene tolta la colpa, ma resta con la divina giustizia il debito dell'espiazione. E quello lo paghi tu. Capite, ragazzi? Ora state attenti, perché alcuni ragazzi e alcune ragazze, questo ve lo dico io perché li conosco i ragazzi e le ragazze, che cosa gli piace a loro? Ve lo dico io. Che fanno i peccati grossi, cioè non lo so, mancano a messa, tutto spiano, bestemmiano, e fanno gli atti impuri, e magari si fanno pure qualche canna, vanno in discoteca, fanno qualche notte brava, e magari glielo pure dicono al prete, però desiderano che il prete gli dica, vabbè, non fa niente, non ti preoccupare, mo te do la soluzione, come penitenza di un'Ave Maria. Bello, no? Ah, a parte il fatto di quello che abbiamo detto prima, quindi, cioè, se un giovanotto si va a confessare le cose che ho detto prima, il sacerdote paternamente, con molta bontà, ma deve dirgli: sta attento, figlio mio, cerca di pentirti di queste cose e cerca di fare in modo in futuro di combatterle e di non farle più. Non dico che se lo magna, come dicono a Roma, però certamente proprio per il bene che gli vuole lo esorta. Allora, ma se gli dà come penitenza un'Ave Maria, sta attento, fratellino e sorellina che mi stai ascoltando, se ti è successa questa cosa. Io spero che ti abbia confessato il santo curato d'Ars, perché il santo curato d'Ars dava delle penitenze piccole, non un'Ave Maria per i peccati che vi ho detto prima. Questo lo proprio scordate, d'accordo? Perché sarebbe diseducativo. Però, se leggete la biografia, la notte la passava con i flagelli in mano e stava anche 1 o 2 ore sporcando di sangue il muro della sua stanza per espiare i peccati che aveva sentito durante le confessioni del giorno e per i quali non aveva, per ragioni di carità, data tutta la penitenza che avrebbe dovuto dare. Ma quel conto alla divina giustizia qualcuno lo deve pagare, ragazzi. Se non lo paga il tuo confessore, sapete chi è che lo pagherà? Lo pagherai tu al termine della vita e lo pagherai con un col purgatorio. Quindi, quando ti troverai davanti a Dio, maledirai il giorno in cui ti sei confessato da un sacerdote, da un confessore di questa risma. Capito? Spero che abbiate capito. Ora, il confessore deve essere scelto bene. Dovete pregare e bisogna confessarsi, possibilmente, chi ha la possibilità, beato lui. Sempre dallo stesso confessore, non è obbligatorio, ma è quanto mai opportuno. Tenete presente che un confessore deve svolgere, così potete dire, come faccio a capire che c'è un bravo confessore? Controllate queste quattro cose, le dice Sant'Alfonso. Sant'Alfonso è il patrono dei confessori e dei moralisti, Sant'Alfonso Maria dei Liguori. Dice che il confessore ha quattro funzioni, deve essere padre, deve essere maestro, deve essere medico e deve essere giudice. Deve essere padre in quanto tutto il clima della confessione va sempre fatto all'interno di una, come dire, manifestazione della bontà e della misericordia di Dio, che è tale anche quando che è tale anche quando si debbano dire le cose come stanno e si debba anche prendere un provvedimento severo. Perché la bontà non va confusa con il buonismo, che è un'altra cosa, che è una degenerazione. Secondo, quella di maestro, cioè il confessore deve aiutarti a focalizzare le tue colpe e anche a formare la tua coscienza. Dopo che ti sei confessato, devi dirti: bene, figlio mio, non mi hai detto nessun peccato grave, quindi stai tranquillo, oppure sta attento, questa cosa che mi hai detto è grave, cerca di non farla più. Quest'altra cosa è ancora più grave, cerca di non farla più. Se si accorge il confessore che tu non ti sai confessare, ti deve aiutare facendoti delicatamente qualche domanda. Cioè, se un prete vi chiede qualcosa, non è che si vuole fare gli affari vostri. Perché se tu la confessione non la fai bene, fai una confessione incompleta che può essere sacrilega. Sapete quante volte io ho beccato persone che mi sono accorto che stavano un pochino zoppicando, gli faccio qualche domanda, esce fuori un peccato mortale. Gli chiedo, dico, figlio mio, figlia mia, dico, ma perché non l'hai detta? Tu la sapevi, sapevi che dovevi dire questa cosa? Mi ha risposto, sì, e perché non l'hai detto? Perché mi vergognavo. Dico, figlio mio, figlia mia, lo sai che se non te l'avessi tirata io fuori con le tenaglie, tu uscivi da qui peggio di come sei entrata? Sì, padre mio, dico sì, padre tuo, dico però, dico stacci attento, stacci attenta, perché non tutti fanno queste cose, purtroppo, a quello che mi raccontano oggi, anche perché vogliono sembrare buoni, perché se uno comincia a fare qualche domanda, ah, come si permette, ah, si fa gli affari loro, eccetera, eccetera, ecco, ma non è così. Poi, il confessore deve essere medico, quindi deve darti delle indicazioni sante per combattere il peccato e delle terapie per uscirne fuori. Quando uno, per esempio, ricade negli stessi peccati, deve essere aiutato e ci sono delle modalità per aiutare. Guardate che è come quando vai dal medico, se ti torna sempre la stessa malattia e il medico non ti guarisce, c'è un problema nel medico. Cioè, da alcuni peccati bisogna essere aiutati a uscirne fuori con le opportune terapie di penitenza, di preghiera, di esercizi, eccetera. E un prete deve essere in grado di se fa il confessore, di portarti fuori dalle colpe. E infine un sacerdote santo deve essere un giudice, un confessore santo, non nel senso che deve verificare se la confessione è sincera e se il penitente, a quanto sembra, sia pentito, quindi se può assolverlo. Voi sapete che quando un confessore si accorge che il penitente non è pentito, deve fare il possibile per stimolargli il pentimento in sede di confessione, non dirgli subito vai via, quindi cercare di persuaderlo sul fatto che quello che fa è molto grave e cercare di portarlo almeno a quel minimo di apertura al pentimento che consenta poi di dare l'assoluzione. Allora, dette tutte queste cose, facciamo adesso l'elenco. La confessione è sacrilega. 1. Quando non si è pentiti, cioè quando non si prova dolore per quello che si è fatto, ma soprattutto quando non si ha alcuna intenzione di smettere. E vi ho già detto che è inutile in questo caso appoggiarsi a un confessore dalla manica larga, perché anche se ti assolve tu non sei assolto. Poi, seguono le confessioni incomplete. Quindi una confessione è sacrilega quando è incompleta per colpa del penitente, non perché ti sei dimenticato qualcosa, perché se ti sei dimenticato non c'è nessun problema. Ed è incompleta o perché si vergogna, oppure perché ha paura di rivelare qualche peccato. Oppure, questa è una cosa ancora più grave, quando rifiuta di riconoscere qualche peccato come peccato, cioè non lo dice perché si è fatta la sua fede personale, per cui pensa che quella cosa non sia peccato. Ok? La confessione, tra l'altro, poi viene invalidata, come dire, in maniera successiva, se il sacerdote ti ha detto come penitenza, non lo so, ha detto una decina del rosario, ha detto il rosario, eccetera, eccetera. E tu non la fai. Ecco. Allora, come si prepara una buona confessione? Telegraficamente, per evitare di incorrere in questi gravi peccati. Allora, numero uno, bisogna pregare il Padre Eterno che ci faccia trovare un buon confessore e avere, se possibile, un confessore fisso di sana dottrina, di vita santa e animati da santo zelo. Sapete che i modelli di confessori sono, a mio avviso, tre. San Pio da Pietrelcina, il Santo Curato d'Ars e Sant'Alfonso Maria dei Liguori, che hanno confessato migliaia, milioni forse di gente, che erano capaci di sintetizzare in maniera perfetta la misericordia e la severità, la dolcezza, ma anche la fermezza, senza pendere né dall'uno né dall'altro. La seconda cosa è che dobbiamo imparare a fare bene l'esame di coscienza. E se ci abbiamo difficoltà, non aspettare che sia il prete a farci le domande, chiedeteglielo voi. Mi aiuta padre a confessarmi bene? Che così un sacerdote, diciamo così, è liberato. Io vi dico, parlo da prete, non è divertente fare una cosa di questo genere, per cui se il penitente te lo chiede e quindi già manifesta una volontà in questo senso, ti facilita il compito. Terza cosa. Essere sommamente sinceri e curare di confessare bene i peccati per specie. Quindi non basta dire ho peccato contro il sesto comandamento, devi dire cosa hai fatto, perché un conto è l'adulterio, un conto sui rapporti prematrimoniali, un conto sugli atti impuri solitari, poi lo vedremo. Per numero, quindi dare un ordine di grandezza quando non si ha il ricordo preciso, e per circostanze, quella che vi ho citato prima della messa. Pensate per esempio a uno che bestemmia davanti a un figlio, è più grave questo qui che una bestemmia detta, come dire, in maniera solitaria o una bestemmia detta a mente. Quattro, possibilmente preparare la confessione ricorrendo all'ausilio della nostra cara mamma del cielo e anche magari pregare per i nostri confessori perché abbiano la luce e il discernimento per aiutarci a fare l'unica cosa che è necessaria, a cui serve questo sacramento. Cioè troncare con il peccato. Il santo curato d'Ars diceva queste parole con cui concludo l'incontro di oggi. Se non c'è in noi un completo cambiamento, non abbiamo meritato l'assoluzione, sto citando le sue parole, e c'è da temere che il nostro sia solo un sacrilegio. Ah, se almeno ogni 30 assoluzioni, pensate cosa dice, ve ne fosse una valida, come si convertirebbe presto il mondo? Parole del santo curato d'Ars. Con queste vi saluto e vi do appuntamento per chi lo desidera a martedì prossimo, stessa ora, stesse frequenze sulla nostra amatissima radio Buon Consiglio che porta l'Immacolata nei nostri cuori. Vi benedico tutti e vi saluto. Ave Maria.